Non possediamo le risposte che cercate, ma possiamo indicarvi una direzione. Da generazioni, il nostro popolo custodisce una mappa del deserto. Su di essa sono incise delle coordinate precise. Nessuno sa cosa indichino. Molti hanno provato a seguirle e non sono mai tornati. Ma crediamo che portino al luogo in cui è nascosta la chiave del fuoco. Noi possiamo offrirvi la mappa, ma il resto spetta a voi.